lo sciopero che abbiamo indetto in maniera urgente con un preavviso di soli 10 giorni, è uno sciopero regionale, è uno sciopero, diciamo, che tecnicamente si chiama a carattere politico, perché non ha a che fare semplicemente con vertenze aziendali del trasporto pubblico locale nelle varie aziende in cui noi siamo presenti. È uno sciopero che si preannuncia realmente a livello regionale. Lo sciopero del 23 ottobre segue sciopero che abbiamo già indetto un mese fa, circa un mese fa, il 25 settembre, a una settimana dalla riapertura delle scuole. Abbiamo indetto questo sciopero a livello regionale, ovviamente riferito alle politiche nazionali, ma nello specifico anche a come viene gestito il sistema del trasporto pubblico dall'attuale giunta Bonaccini e Corsini. Tre punti che abbiamo messo come pilastri di questa mobilitazione sono: al primo posto c'è la questione della salute e sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale e dei cittadini, sicurezza che per noi è al primo posto realmente, non a parole come sembra che ci sia nella testa delle istituzioni in questo momento, che sono più preoccupate a salvaguardare una posizione politica e anche propagandistica rispetto a un ritorno a una normalità che non abbiamo. Noi riteniamo che le misure messe in atto concretamente, non a parole, dalla regione e dalle aziende di trasporto pubblico locale non siano adeguate a tenere la situazione, perché riteniamo che il trasporto pubblico locale abbia un'importanza cruciale in questo momento, così come la scuola, nel contenimento dell'epidemia. Al secondo punto abbiamo la questione del trattamento economico e normativo dei lavoratori che stanno facendo fronte a questa emergenza con grandi sacrifici personale e collettivo. Per chi non lo sapesse, i lavoratori non hanno avuto nel periodo di emergenza copertura del proprio salario al 100% per quelli che sono andati praticamente in cassa integrazione. C'è ancora una decurtazione in atto di alcuni istituti contrattuali come dei premi, sarebbe il salario accessorio oltre i minimi contrattuali nazionali, che sono stati decurtati. La terza questione, non per importanza, la questione degli appalti. Ancora di più oggi con questa emergenza, la questione che si continui in una gestione selvaggia, dir poco, degli appalti, per noi è una questione, diciamo, non solo di diritto del lavoratore, ma anche di tenuta dell'intero sistema del trasporto pubblico locale. La mancanza di adeguate misure di prevenzione e di sicurezza nel trasporto pubblico locale. Perché al di là delle parole tranquillizzanti che vengono spese dalla giunta, dall'assessore e anche dal dirigente aziendale, le questioni non sono assolutamente risolte. Io credo che, come dire, siamo di fronte alla famosa situazione in cui il re è nudo. Tutti sappiamo che la situazione non è gestibile in questa maniera, ma si fa finta di nulla. Noi non facciamo finta di nulla, tant'è vero che abbiamo aperto una campagna di diffide e di denunce presso le aziende di trasporto pubblico locale. Siamo partiti con l'azienda principale, che è Tiper, che è stata diffidata da noi rispetto alle misure che secondo noi devono essere prese e non sono state prese dall'azienda, ed è proseguita perché proprio ieri abbiamo inviato a NAS, USL e Prefettura una richiesta di intervento molto particolareggiata rispetto alle misure che sono necessarie da prendere riguardo il trasporto pubblico locale. Un'altra specifica importante che riguarda la questione dei fondi è che si è fatto un gran parlare degli stanziamenti che il governo ha dato al trasporto pubblico locale, ma la verità è che questi fondi attualmente non ancora hanno quell'impatto e quella ricaduta soprattutto sui lavoratori e sull'aumento in termini di retribuzione, di copertura di quello che si è perso, ma soprattutto per quanto riguarda l'aumento del servizio. L'ultima notizia è l'aumento di 100 e qualcosa mezzi per quanto riguarda il trasporto scolastico, ma diciamo la verità, queste sono, come dire, è come svuotare il mare col secchiello. Noi abbiamo bisogno di un piano nazionale ben più consistente per poter potenziare nell'immediato, penso che, massiccio utilizzo di tutti i mezzi pubblici, anche privati, disponibili sul territorio debba essere necessario a fronteggiare questa situazione. Un'altra specifica che riguarda il terzo punto sugli appalti, la questione qui è guerra aperta, perché noi siamo andati giù pesante, come era nostro dovere, sulla questione della gestione degli appalti, e rispetto a questa nostra azione, che non dà sconto a nessuno, abbiamo avuto una prima gravissima azione da parte appunto di una delle aziende del trasporto pubblico locale, in questo caso Tiper, che ha avviato un procedimento disciplinare proprio nei confronti dei delegati che hanno denunciato all'autorità anticorruzione determinate gare d'appalto. Però la condizione di attacco all'attività sindacale è quella che conosciamo. Il tema principale è ovviamente quello dell'emergenza Covid, ma non solo. Abbiamo a che fare con un atteggiamento sia da parte della giunta Bonaccini sia da parte dello stesso ministro De Micheli riguardo il trasporto pubblico locale, che credo che sia un atteggiamento incauto, irresponsabile, ipocrita. Negare l'affollamento è quello che l'affollamento sta causando sul nostro territorio, penso che non sia accettabile. Pensare che stare in 5 un metro quadro su un autobus dicendo che la reazione risolve sul mezzo pubblico i problemi di contaminazione, penso che sia un'affermazione grave e che ovviamente, vuol dire, nessuno che abbia un minimo di conoscenza, di buonsenso, possa, vuol dire, una palese contraddizione rispetto a quelle che sono le norme che noi dobbiamo adottare in qualsiasi altro contesto